1. Il palo della libertà svettava alto, dritto verso il cielo. Il tronco di betulla era stato levigato con molta più cura e issato di nuovo tra canti, balli e rinnovati auspici. Il giuramento era corso di bocca in bocca. Nessun tacco di possidente lealista avrebbe profanato quel simbolo. La bandiera del congresso sventolava, rossa come il sangue dei primi martiri. Si diceva che altrove avesse preso a sventolare un'altra bandiera, ma nella valle nessuno l'aveva ancora vista. Il cielo era percorso da nuvole ovattate, il caldo era opprimente. Il colonnello della milizia, Nicolas Herkimer, sedette, facendosi aria con un fazzoletto bianco. La gente, i patrioti, un nuovo popolo in fieri, riempiva la piazza di fronte alla chiesa. Molti tradivano impazienza. Da quando John Johnson e i suoi sgherri se n'erano andati, la milizia e il comitato di salute pubblica tenevano in pugno quella zona della valle. I giorni della paura sembravano finiti, o meglio, continuavano, ma per l'altra fazione, con perfetta simmetria. Herkimer era stato capitano durante la guerra franco-indiana. Aveva sempre fatto il suo dovere nei confronti della colonia. Proprio per questo si era schierato dalla parte giusta. I motivi erano ideali, oltre che concreti. La libertà era quello che aveva sempre contraddistinto i sudditi del re d'Inghilterra. Da anni, invece, Giorgio III si comportava da tiranno, applicando tasse infami e balzelli umilianti, tenendo in spregio ogni richiesta di rappresentanza da parte delle colonie d'America. I sudditi, dunque, non erano più tali, non avevano più alcun obbligo. Il documento che teneva tra le mani lo comprovava. Era una versione a stampa della dichiarazione che il Congresso aveva formulato poco tempo prima. Da quel momento non c'erano più sudditi. C'erano cittadini e le colonie erano una nuova Atene, una nuova Roma repubblicana. Il superbo Tarquinio inglese non poteva più decidere delle loro vite. Il novello Dario, che giungeva con uno sterminato esercito, avrebbe conosciuto la sua maratona. Ora si trattava di spiegarlo, o meglio di tradurlo ai convenuti. In maggioranza immigrati tedeschi e olandesi. Per loro l'inglese era lingua semisconosciuta. Herkimer si chiese se sarebbe stato in grado di esprimere quegli alti concetti in Mohawk Dutch, il dialetto locale, misto di inglese, tedesco e olandese, pronunciato in modo inaccessibile agli stranieri. Si guardò attorno e si chiese se la maggioranza avrebbe capito, anche la miglior traduzione possibile. Ancora una volta Herkimer non poté fare a meno di pensare che tutti i problemi della valle avessero a che fare con un'assenza. Sir William. Lo aveva conosciuto bene. Avevano combattuto insieme e nessuno poteva convincerlo che un uomo simile avrebbe voltato le spalle al richiamo di libertà che si alzava da tutta la colonia. Ai tempi dello Stamp Act, giusto 2 anni dopo la fine della guerra franco-indiana, Sir William non si era pronunciato a sfavore delle richieste dei Whig. Si era limitato a dichiarare che quelle ragioni rischiavano di essere portate avanti in modo improprio. Negli anni successivi aveva sempre fatto formale atto di sottomissione alla corona, nella sua posizione non avrebbe potuto fare altro. Ma era morto prima che la situazione precipitasse, prima che la madrepatria prendesse a violentare e a frustare le legittime richieste delle colonie. Quanto dicevano alcuni patrioti, che Sir William sarebbe stato dalla loro parte, era forse eccessivo. Di certo però sarebbe stato abbastanza intelligente e lungimirante da non schierarsi dalla parte di un tiranno. I figli, gli eredi, i suoi indiani erano stati molto meno lucidi. Avevano avuto paura. Herkimer passò in rassegna i volti che affollavano la piazza. «Cari amici, vedo con piacere che siamo tutti presenti. Quando la campana della libertà suonò i primi rintocchi, eravamo certo molti meno. Tutti ricordiamo bene cosa successe la prima volta che innalzammo il palo. La prepotenza e l'arbitrio spinsero ancora più persone ad abbracciare la nostra causa. Noi oggi... ricordiamo? Innalzammo?» Jonas Klug sporse le labbra in una smorfia perplessa. Se l'era sentita raccontare 1000 volte la storia del palo. Gente come Reinhard non perdeva l'occasione di gonfiare le penne. «Io c'ero!» Come a dire, «Tu no, sei arrivato dopo, ti sei svegliato tardi, quando serviva meno coraggio». 1000 volte in nessuna di quelle compariva Nicolas Herkimer. Pure lui s'era svegliato tardi, ma nessuno dei coraggiosi si azzardava a correggerlo, muti come sassi. Intanto quello spiegava, diceva qualcosa a proposito dell'indipendenza, che il re non aveva più alcuna autorità sulla colonia, che i cittadini degli Stati Uniti d'America erano liberi e avevano diritto alla felicità. Belle parole, come no. Ma poi dietro il fumo l'arrosto era poco. Altro che liberi. Volevi dare una lezione a un lealista borioso? Spiacenti, niente iniziative individuali, ordine del colonnello Herkimer. Volevi far capire ai selvaggi che la musica era cambiata? Niente da fare. Se andavi a Kana Yoharie, dovevi andarci disarmato. Lo aveva promesso Herkimer alla strega indiana, magari in cambio di una ripassata o magari anche no. Quando sei ricco sfondato e la terra buona ti esce dalle orecchie, non è poi così difficile fare il gentiluomo, rispettare il nemico, concedere quartiere e le altre smancerie da ufficiale. Il sermone finì tra applausi e voli di cappelli. Quando il tumulto si placò, Klug schiarì la voce e chiese la parola. «C'è una cosa che non mi è chiara, colonnello. I selvaggi che vivono nello Stato Libero di New York, sono cittadini anche loro o cosa?» «Se per selvaggi intendete gli indiani, signore, allora no, non lo sono, ma devono decidere se essere amici o nemici della libertà». «Scusate, colonnello», ribatté Klug, «ma se non sono cittadini, perché possono abitare la nostra nazione? Se compro una casa per andarci ad abitare, ma poi ci trovo dentro della gente, io li faccio sloggiare, fuori dai piedi». Le parole di Klug sollevarono un brusio di approvazione. Herkimer fece un cenno con la mano e prese la parola. «Dimenticate che questo è un paese di giusti, signore, che prende a modello i fasti di Roma e Atene». «Atene?» si mandò Klug, mai sentita. «Roma? Non era la città del Papa? Che c'entrava il Papa con la nuova nazione? Non c'era nessun papista tra di loro, e per fortuna». «Le proprietà e l'incolumità degli indiani saranno salvaguardate, a meno che non agiscano in modo esplicito contro il Congresso e contro gli Stati Uniti d'America. Prima che i nostri avi giungessero qui dall'Europa, essi abitavano già questa terra. Il nostro compito è civilizzarla, non espropriarla». Klug fece cenno che non aveva altro da chiedere, ma la risposta non lo aveva soddisfatto. «I selvaggi erano in America da prima di tutti, che scoperta. Anche gli scoiattoli, allora. Eppure nessuno chiedeva il loro permesso prima di abbattere un bosco o coltivarci segale». Klug ne era sempre più convinto. Bisognava liberarsi dai musi rossi una volta per tutte. Presto o tardi, un generale gentiluomo con la passione per le squaw si sarebbe convinto che anche gli indiani avevano diritto alla felicità. Anche i negri, anche gli scoiattoli e i boschi. Se si andava avanti così, gli Stati Uniti d'America avrebbero avuto un orso per ambasciatore, un negro per ministro, e una sorella zucca seduta in congresso.